Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Eccoci qui, buonasera, benvenuti a Smart City, Maurizio Melis al microfono. Questa sera parliamo di un progetto che unisce nuovi materiali avanzati e studi di biomimetica per dar luogo a cosa? A un nuovo tipo di casco, di nuova concezione, particolarmente leggero e confortevole. Il progetto si chiama Diatom Helmet e noi ne parliamo con Valerio Ciampi-Cacigli, designer, fondatore di Pola Studio Design e docente presso l'Istituto Quasar. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti e grazie di avermi coinvolto. Dunque, dicevamo di questo casco, la cosa è cominciata con un invito, questa vicenda, con un invito da parte della professoressa Langella, che si occupa di biomimetica, a partecipare come studio di design ad una mostra organizzata dalla Università Federico II, avente come tema le diatomee. Intanto ci ricordi che cosa sono? Le diatomee sono delle alghe unicellulari non flagellate, per dirla con quelli bravi. Si tratta di organismi monocellulari tra i più diffusi, diffusi e antichi, no? E antichi, esatto, sono comparsi circa 145 milioni di anni fa. E sono ancora qua. E sono ancora qui ed è il motivo per cui insomma vengono studiate ed è anche il motivo che ci ha insomma spinto ad approfondirne la conoscenza. Sono unicellulari, sono piccolissime, si vedono praticamente al microscopio e hanno una caratteristica, hanno un guscio molto particolare, no? Da infinite caratteristiche, sì. Questo guscio, diciamo il guscio in realtà si chiama frustuli, è composto da frustuli cosiddetti, che è quello che poi ha ispirato la nostra ricerca relativa al casco. Perché ha delle caratteristiche tecniche, diciamo, no? Esattamente, molto... a questa matrice appunto geometrica che è ripetuta crea, come dire, delle superfici molto resistenti che poi stratificata ulteriormente va a aumentare le caratteristiche di resistenza del corpo dell'alga stessa. Di questo guscio, insomma, gli urti alle penetrazioni, tra l'altro sono molto belli da guardare al microscopio, un po' come i fiocchi di neve, sono quasi tutte diverse quando le si guardano, no? Tra l'altro esistono 200.000 specie diverse di queste diatomee. Ecco, senta, perché è il caso di imitarle? Un po' ce l'ha in realtà già spiegato, no? La caratteristica principale che noi abbiamo scelto di utilizzare, una delle tante, è proprio quella della resistenza, il fatto che e di riapplicarlo poi appunto ad un oggetto che aveva più che altri di bisogno di essere resistente e di resistere ad urti. Ad urti. Ecco, che cosa avete imitato delle diatomee e riprodotto su questo strano casco? Ma diciamo che noi abbiamo ripreso la matrice nanometrica di una delle tante diatomee e riportata su un'altra scala e abbiamo ripreso anche la stratifica di questa superficie, per cui rendendo parametrica anche questa superficie, per cui abbiamo creato sostanzialmente una calotta composta da tre differenti materiali, ognuno con una caratteristica diversa. Ecco, esatto. Tra l'altro lo strato intermedio, diciamo questo casco ha una sua superficie esterna che è di comune ABS, una parte interna è neoprene, quella che va a contatto con la pelle, e c'è in mezzo un materiale molto tecnologico, diciamo così, che si chiama D3O. Ci spiega che caratteristiche ha? La caratteristica principale del D3O è un materiale che nasce in forma, diciamo, semisolida e che nel momento in cui viene colpito, sollecitato da una forza esterna, quindi da un urto esterno, si irrigidisce fino a diventare super solido, super resistente, quindi ci sembrava opportuno, come dire, quindi ha la malleabilità nel momento in cui viene maneggiato dolcemente, per cui è comodo sostanzialmente, ma se prende una botta diventa molto rigido. Ecco, per fare un esempio con un materiale un po' più noto e molto meno tecnologico, c'è la gomma pane, ecco, che abbiamo avuto tutti per le mani. Se gli diamo uno strattone, questa si spezza come se fosse un materiale rigido, se la comprimiamo, la tiriamo leggermente, diciamo, questa invece si deforma. Il concetto è lo stesso, no? Anche sì, esattamente sì. Diciamo non ha proprio la stessa malleabilità, ma ha una grandissima elasticità, sì. C'è un progetto oggi sostanzialmente, vorreste andare avanti, che cosa serve? Ma in realtà il progetto nasce in funzione della mostra, ad oggi lo stiamo continuando a sviluppare e siamo chiaramente alla ricerca di potenziali aziende o centri di ricerca interessati a portare avanti il concept che eventualmente possano, come dire, finanziarlo, perché chiaramente è un progetto che richiederebbe degli cambiamenti significativi, più che altro, sì, insomma, anche proprio per l'uso di questo materiale molto innovativo che è stato inventato nel 2007, credo. Esattamente, no? Ma soprattutto per una questione anche del testing, nel senso che trattandosi di un casco, chiaramente andrebbe. C'è una fase di omologazione molto complessa e quant'altro. Grazie, Valerio Ciampicacigli. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.